L'ottavo giorno, a cura di Emiliano Enrico. Ci sono molti argomenti pronti nel nostro menu di notizie, commenti e personaggi, come sempre condito attraverso i servizi che sono già andati in onda nei GR di Radio 24 nell'ultima settimana, da sabato scorso 7 marzo fino a ieri. Benvenuti dunque a questa nuova puntata dell'ottavo giorno, che oggi si muoverà in particolare tra le schermaglie nella politica tra Franceschini e Berlusconi, ma anche all'interno della stessa maggioranza tra Berlusconi e Fini. E poi passeremo con disinvoltura dal crack Madoff, il più favoloso e il più inquietante nella storia della finanza, al crack, al fallimento delle squadre italiane di calcio, tutte eliminate miseramente in Champions League. E allora, cominciamo. Sabato. Quella che appena trascorsa è stata una settimana della politica italiana molto ricca di spunti, di spigoli e spigolature, soprattutto lungo l'asse Berlusconi-Franceschini, i due leader di maggioranza e opposizione. I due si sono, come dire, inseguiti in una sorta di rilancio di proposte e controproposte. Sabato comincia questa gara particolare il Presidente del Consiglio, che lancia il suo piano casa. Il servizio di Vincenzo Miglietta. Conferma l'arrivo di un piano straordinario per l'edilizia e invita a guardare con fiducia al futuro. Il presidente del Consiglio Berlusconi torna sulla difficile congiuntura internazionale e spiega: basta con i catastrofisti e i profeti di sciagura, perché per uscire dalla crisi, aggiunge, bisogna essere ottimisti. La prossima settimana, prosegue Berlusconi, presenteremo un piano straordinario per l'edilizia. Servirà, dice, a dare a chi ha una casa e nel frattempo ha ampliato la famiglia la possibilità di aggiungere una stanza o un bagno. Di crisi parla intanto anche il ministro dell'economia Tremonti, in particolare di quanto fatto per il mercato del lavoro. Qui abbiamo messo più soldi possibile, noi pensiamo sufficienti per chi è messo fuori dalle fabbriche, dagli uffici, dai contratti a termine. Di lavoro parla anche dall'opposizione Franceschini. Dopo la proposta dell'assegno di disoccupazione, il leader del PD chiede maggiore coraggio per i precari della pubblica amministrazione. Proponiamo al governo una moratoria di un anno bloccando i provvedimenti che porteranno, se non corretti, a licenziare circa 60.000 lavoratori del pubblico impiego e circa 40.000 lavoratori della scuola. La reazione del Partito Democratico e del suo segretario, molto combattivo, molto pugnace in queste prime settimane, non si fa attendere. Piovono critiche sul piano casa del governo, c'è anche un appello di molti architetti che sono contro la proposta del governo, e poi a sua volta Franceschini lancia nuove iniziative. Ma nel mezzo c'è da superare lo scoglio della RAI. Infatti la casella del presidente di Viale Mazzini è ancora vuota. Domenica sembra che sia vicino, sia in addirittura un accordo, poi lunedì c'è invece un nuovo colpo di scena. Da Roma, Andrea Viali. La guida della RAI è un incarico di grande prestigio per il quale mi ero reso disponibile. Dopo un'attenta riflessione ho però deciso di restare dove sono, a fare solo il giornalista. È con queste parole che stamattina il direttore del Sole 24 Ore, Ferruccio De Bortoli, ha annunciato la sua rinuncia alla presidenza della RAI. Per De Bortoli avevamo dato il nostro benestare, invece lui ci ha ripensato. Ora aspetta alla sinistra fare un nuovo nome, è stato il commento del premier Berlusconi, al quale ha fatto seguito poco dopo la replica del segretario del Partito Democratico. Pensavo che la legge imponesse la ricerca faticosa di un nome condiviso. Se invece Berlusconi intende dire che accetterà qualsiasi nome dall'opposizione, ho molte idee in proposito, ha fatto sapere Franceschini, che nel pomeriggio ha anche incontrato il sottosegretario Letta nel tentativo di arrivare ad una nuova intesa. L'accordo per ora non c'è, ma Gasparri del Popolo delle Libertà si dice comunque fiducioso. Continua il confronto tra maggioranza e opposizione, e certamente rapidamente si individuerà una persona altrettanto qualificata per questo ruolo. Basta con la lottizzazione della RAI, insiste invece dall'opposizione Orlando dell'Italia dei Valori. Stiamo assistendo ad un accordo che si chiama trasversale, che si fa a prescindere dagli interessi pubblici e della libertà di informazione. La sfida diretta tra Berlusconi da una parte e Franceschini dall'altra è molto intensa in questi giorni, ma c'è un nuovo fronte di polemica che si apre invece all'interno della maggioranza. Berlusconi, il Presidente del Consiglio, contro, diciamo così, Fini, il Presidente della Camera, quindi la terza carica dello Stato. L'oggetto della contesa è il ruolo presente e futuro del Parlamento. Ci racconta tutto Elisabetta Fiorito. Uno scontro istituzionale che nasconde quello futuro sulla leadership del Popolo della Libertà. Ad inizio giornata tutto sembra filare liscio. Il presidente della Camera Gianfranco Fini lancia la candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale. Sulle pagine del Paese Fini parla di un'ipotesi non remota perché il premier gode oggi di un appoggio personale e popolare. Guai però a chi lo definisce il delfino di Berlusconi. Per Fini il premier non è il re con un erede. Una tesi che trova conferma durante l'arco della giornata, quando arriva lo strappo. Fini boccia la proposta del Presidente del Consiglio di far votare solo i capigruppo. Per il Presidente della Camera era già stata avanzata ed era caduta nel vuoto perché è impossibile rivedere i regolamenti parlamentari. Adesso la battaglia sulla leadership si sposta a fine mese, quando a Roma si terrà il congresso della nascita del Popolo della Libertà. Qualcuno ha segnalato che in questi giorni, da quando in particolare Franceschini è diventato segretario, il Partito Democratico litiga di meno e cerca di inchiodare il governo al tema che poi non fa dormire nessuno, cioè la crisi che incombe veramente dappertutto. Vedremo quanto durerà questa situazione. In effetti le iniziative di Franceschini sembrano puntare soprattutto sul versante economico. E mercoledì arriva una nuova idea che fa pensare molto a Robin Hood, cioè togliere un poco ai ricchi per dare, sempre poco per la verità, ai poveri. Sentiamo Valeria De Rosa e poi il commento di Stefano Folli. L'assegno di disoccupazione straordinario per tutti i lavoratori che perdono il posto a causa della crisi arriva in Parlamento. Discussione in contemporanea alla Camera e al Senato. Una proposta già bocciata dalla maggioranza, anche se il Partito Democratico ha dalla sua i numeri. Tra gennaio e febbraio 370.000 persone hanno perso il lavoro e gran parte di loro non hanno ammortizzatori sociali, ribadisce Franceschini, che lancia una nuova proposta. Un contributo straordinario da chi guadagna di più per finanziare il fondo per le politiche sociali, fondo a cui, ricorda Franceschini, sono stati sottratti poco meno di 300 milioni di euro. Proponiamo un contributo straordinario di solidarietà per il 2009 di 2 punti dell'IRPEF su tutti i redditi alti, partendo da quelli dei parlamentari compresi in su. Punto di partenza è il reddito da 120.000 euro, dichiarato da meno di 200.000 persone in Italia. Obiettivo è raccogliere 500 milioni da mettere a disposizione dei comuni e delle associazioni di volontariato per aiutare chi non ha di cosa mangiare. Netta la chiusura da parte del PDL. Secondo Lupi, vicepresidente della Camera, Franceschini ormai è sull'orlo di una crisi di nervi. L'idea però piace a Bossi. In un momento di crisi, chi ha di più, ha detto il leader del Carroccio, è bene che contribuisca. La strategia del Partito Democratico e di Franceschini, recuperare consensi a sinistra, ridurre l'area dell'astensione critica, continua e si precisa. La proposta dell'una tantum in aiuto dei ceti poveri può piacere o non piacere, ma è soprattutto un altro modo per definire l'identità socialdemocratica del centro-sinistra, dopo l'idea dell'assegno ai disoccupati. Più che assurda o demagogica, come ha obiettato qualcuno della maggioranza, è una scelta politica indotta dagli spazi angusti in cui è costretta a muoversi la gestione Franceschini. D'altra parte, a pochi mesi dalle elezioni europee e amministrative, un'altra strada non c'è per restituire un po' di fiducia a una base sociale disorientata, per riunire chi si è disperso. Piuttosto è interessante il favore subito dimostrato da Umberto Bossi. Interessante ma non strano, la Lega è un partito popolare e Bossi ci tiene a sottolinearlo. In questi anni è cresciuta anche sottraendo consensi alla sinistra. Ora, in tempi di recessione, la contesa per la conquista di questi voti, cioè dei ceti toccati dalla crisi, si fa più serrata, senza contare che la Lega non vuole un'opposizione troppo debole e ha bisogno di un rapporto a sinistra per far passare il federalismo. Niente di più, ma non è poco. Vi devo qualche aggiornamento rispetto ai servizi che abbiamo appena riascoltato. Per esempio, la proposta dell'assegno di disoccupazione presentata dal Partito Democratico giovedì viene respinta in aula. Ieri invece è stato, come consuetudine, giornata di Consiglio dei Ministri. In particolare è stato dato il via libera alle misure a sostegno dei lavoratori precari. Chissà, forse il pungolo assiduo di Franceschini nei confronti del governo spinge proprio il governo a muoversi in questa direzione. Tra i provvedimenti c'è il raddoppio dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori a progetto e tempi più rapidi per l'assegnazione degli ammortizzatori sociali. Slitta invece il piano casa, su cui tanto aveva battuto Berlusconi in settimana. L'ottavo giorno. Domenica. È l'8 marzo, quindi anche noi ci associamo alle celebrazioni per la festa della donna. Cominciamo dalla politica, da quello in particolare che dice la politica proprio in quelle ore di festa. A brevissima distanza parlano prima Napolitano e poi Fini. E allora i servizi di Elisabetta Fiorito e poi di Paolo Piacenza. Violenza, stupri, disparità salariale, scarsa rappresentanza in politica. Sono queste le ombre che pesano sulle donne, ombre denunciate dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano durante le celebrazioni per l'8 marzo al Quirinale. Quella più cupa è la violenza sulle donne. La vergogna e l'infamia delle violenze contro le donne, degli stupri e di tutte le forme di molestia, di vessazione, di persecuzione ad opera di stranieri o di italiani non fa differenza. La strada per l'emancipazione è ancora lunga, per Napolitano c'è ancora molto da fare, soprattutto riguardo alla presenza femminile nelle istituzioni e nel mondo della politica. Esistono disparità salariali e sulle donne grava anche la crisi economico-finanziaria. Che dà segni piuttosto di ulteriore aggravamento che non di allentamento, quanto rischi di essere particolarmente colpito il lavoro femminile. Il ministro delle pari opportunità Mara Carfagna lancia poi un appello alla magistratura ad essere meno perdonista. Ieri, nella celebrazione dell'8 marzo al Quirinale, era stato il capo dello Stato Giorgio Napolitano a mettere l'accento sull'infamia della violenza contro le donne. Oggi lo stesso tema è riecheggiato nelle parole del presidente della Camera Fini durante la manifestazione organizzata al Teatro Brancaccio dal Ministero per le pari opportunità. E anche Fini, che ha parlato di piaga sociale, ha invitato a non dare allo stupro una connotazione etnica. Forse è giusto titolare donna stuprata da un rumeno? Beh, poi è altrettanto giusto titolare, quando accade che è un italiano a stuprare un'immigrata, avere lo stesso tempo identico tipo di posizione. Oppure, mia personale opinione, non ci dovrebbe essere l'attribuzione etnica dietro allo stupro. Secondo il ministro Mara Carfagna, che ha annunciato un pacchetto di misure per le madri lavoratrici, è necessario evitare gli allarmismi, visto che il Viminale registra un decremento significativo degli stupri nell'ultimo anno. Poi però Carfagna ha aggiunto: quando si parla e si tocca la dignità delle donne e dei minori, non bisogna avere nessuna pietà. La parola deve essere tolleranza zero. Uno dei settori nei quali la parità tra uomo e donna appare ancora lontana è quello del lavoro. L'ennesimo studio uscito proprio in occasione dell'8 marzo non fa altro che offrire l'ennesima conferma. Vincenzo Miglietta. È un modello occupazionale quello del nostro paese che deve ancora fare dei passi in avanti a partire dal diverso trattamento tra uomini e donne. Lo dice il rapporto congiunto sull'inclusione e la protezione sociale della Commissione europea che domani sarà esaminata a Bruxelles dai ministri del lavoro. Le differenze, si legge nel rapporto, continuano ad essere significative, con le donne più esposte soprattutto in un periodo di grave crisi a rischio povertà. Anche sui diritti al pensionamento resta il divario tra i sessi, da qui il monito arrivato al nostro paese. Con la Commissione stiamo dialogando, ha già commentato però lo stesso Presidente del Consiglio Berlusconi. L'Italia, ha aggiunto il Ministro della Funzione Pubblica Brunetta, troverà una soluzione per le pensioni delle donne nel pubblico impiego nell'arco di qualche settimana e sarà con tutta probabilità un adeguamento progressivo nell'arco di un decennio. Dall'opposizione il leader PD Franceschini tuttavia commenta: l'innalzamento può avvenire solo dentro un sistema di pari opportunità che al momento mancano. L'età pensionabile per le donne non si tocca, dice dal sindacato la Polverini UGL, che spiega: anche i dati dell'INPS ci confermano che i conti sono in regola e quindi aumentare l'età è qualcosa che dobbiamo rifiutare. Eppure, visto che continuiamo a parlare di lavoro, sembra invece che una donna al comando di una società o di un ufficio sia una garanzia persino più affidabile dei colleghi maschi. Il servizio di Valentina Furlanetto ci spiega perché, servizio che tra l'altro mette in evidenza anche alcune ombre. Quando il gioco si fa duro, le donne se la cavano meglio. L'adattamento del vecchio adagio trova una sua conferma in tempo di crisi. Negli Stati Uniti, ad esempio, il tasso di disoccupazione maschile è salito dal 2007 a oggi dal 4,4 al 7,2%, mentre per le donne è passato dal 4,3 al 5,9%. In Italia due ricerche, una targata Union Camere, l'altra del CERVED, dicono che le società che hanno a capo donne vanno meno in crisi e più raramente chiudono i battenti di quelle guidate da uomini. Fin qui una buona ragione per festeggiare la festa della donna. Ci si può addirittura illudere che lavoriamo meglio e veniamo apprezzate maggiormente. Ma frenate gli entusiasmi, signore. In realtà, dicono gli economisti, tutto ciò accade perché la recessione ha colpito con particolare durezza due settori, l'industria delle costruzioni e la finanza, in cui le donne sono una rarità. Non solo. Statistiche alla mano, a parità di qualifica e incarico, una donna è pagata meno rispetto a un collega uomo e ha una progressione nella carriera più lenta. Anche per questo i datori di lavoro non le licenziano. A ben vedere, c'è poco da stare allegre. Per chiudere questa pagina dedicata all'8 marzo e alla festa della donna facciamo adesso un breve scarto, un breve scalo nello sport, perché proprio l'8 marzo, proprio domenica, forse la sportiva italiana più popolare del momento, direi assieme a Valentina Vezzali, fa un record eccezionale. Dario Ricci. Grandissima Federica Pellegrini, tre giorni dopo il nuovo attacco di panico in vasca. L'azzurra ha stabilito il nuovo primato del mondo dei 200 stile libero, nuotando agli assoluti di Riccione in 1:54:47. Sentiamo la campionessa azzurra. L'augurio per tutte le donne c'è, insomma, quindi non sono stati tempi facili questi ultimi tempi per le donne, perché comunque in Italia sono successe molte cose. Però è un augurio sicuramente con una grandissima soddisfazione che mi sono presa oggi, quindi vale doppio. Lunedì. E adesso voliamo negli Stati Uniti, perché è da lì che lunedì arriva la notizia del giorno, destinata forse a cambiare non solo la politica ma anche il dibattito scientifico e persino etico. La svolta porta la firma di Obama. Il servizio di Cristina Balotelli. Il presidente americano Barack Obama dà il via libera ai finanziamenti per la ricerca sulle cellule staminali, rimuovendo i limiti al finanziamento pubblico decisi nel 2001 da George W. Bush. Non posso garantire che troveremo le cure e i trattamenti che cerchiamo grazie alle staminali. Nessun presidente può prometterlo, dice Obama, ma posso garantire che li cercheremo attivamente, con senso di responsabilità e con urgenza. Aggiunge però che gli Stati Uniti restano contrari alla clonazione umana per fini riproduttivi. È pericoloso, profondamente sbagliato e non ha un posto nella nostra società, ribadisce. L'ordine esecutivo dà 120 giorni al National Institute of Health per mettere a punto le linee guida delle modalità con cui verranno distribuiti i finanziamenti federali. Purtroppo sempre nella giornata di lunedì, quando in Italia in realtà è già notte, giunge un terribile episodio di cronaca dagli Stati Uniti e in particolare dall'Alabama. L'America non è certo nuova a sparatorie impazzite, ma la cosa giustamente ogni volta fa un grande effetto. Poi ci sarà una terribile sparatoria anche in Germania, ne parleremo successivamente sempre nell'ottavo giorno. Intanto restiamo in Alabama con il racconto di Valentina Furlanetto. La scena descritta dai testimoni e dalle agenzie di stampa assomiglia a tante immagini viste al cinema: un uomo armato in preda a un raptus che spara all'impazzata in due piccole e tranquille comunità rurali in Alabama. Ma non è fiction. 11 persone sono morte, fra le quali il responsabile della strage. È accaduto nella notte italiana nello stato del sud-est degli Stati Uniti. L'uomo, un trentenne di cui non sono state diffuse le generalità, ha ucciso 6 adulti e un bambino in 3 diverse abitazioni a Sampson, paese al confine con la Florida, prima di imboccare la statale 52, continuando a sparare mentre avanzava. Altre 3 persone sono state uccise e diverse ferite durante il tragitto, davanti a un distributore di benzina e a un negozio. Poi ha sparato altri colpi nei pressi di una fabbrica nella cittadina di Geneva, dove ha ferito anche il capo della polizia della città. Infine si è suicidato. Non sono chiari i motivi del suo gesto. Si sa solo che fra le vittime ci sono molti suoi familiari, tra cui la madre. Alla fine il killer suicida naturalmente ha un nome, si chiama Michael McClendon e ha 28 anni, aveva 28 anni. Torniamo invece adesso ad Obama, che ad ampie falcate, ma anche con interventi di peso molto incisivi, si sta preparando al G20 di Londra. L'appuntamento è ad aprile. Ma intanto, dicevo, Obama già incalza con alcune iniziative. Sentiamo Sergio Nava. Barack Obama amplia la scena internazionale il suo atteggiamento interventista e, pensando al G20, prova subito a mettere la vecchia Europa con le spalle al muro. We've got two goals in the G20. Obama, che ha firmato tra le critiche la manovra federale da 410 miliardi per il 2009, ha messo nero su bianco due linee guida per il doppio appuntamento del G20. Il primo obiettivo è assicurarci che ci sarà un'azione concertata in tutto il mondo per rilanciare l'economia. Il secondo è garantire un'agenda di riforma delle regole per evitare rischi sistemici di questo tipo, ha spiegato il leader americano, con a fianco il segretario al tesoro Tim Geithner, che nel weekend volerà a Londra per il summit dei ministri delle finanze. Obama attacca pure le tentazioni protezionistiche, ma sa bene che per Washington sarà un successo, soprattutto se riuscirà a far passare ad aprile un pacchetto di misure coordinate di stimolo sul modello americano della durata pari a quella della crisi. Al di qua dell'Atlantico, intanto, la maggior parte dei paesi europei appare invece più orientata a uscire dal G20 con un chiaro mandato di riforma dei mercati finanziari, in particolare per quanto riguarda hedge funds e prodotti derivati. E l'economista Nouriel Roubini, in un'intervista alla rete CNBC, afferma: oggi ciò di cui abbiamo bisogno è una misura di stimolo sulle banche. L'unica soluzione può essere una temporanea nazionalizzazione del sistema. E visto che in un modo o nell'altro stiamo parlando di soldi, adesso affidiamoci a Forbes, la celeberrima rivista che ogni anno stila la classifica dei più ricchi al mondo. C'è crisi negli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti sono sempre in testa in questa classifica, nella quale tutti vorremmo essere naturalmente ai primi posti. Sentiamo Maria Piera Ceci. Ricchi lo sono e come, ma in tempi di crisi anche loro lo sono un po' meno. In media i 224 paperoni del mondo hanno una ricchezza di 3 miliardi di dollari, il 23% in meno dell'anno scorso. In cima alla lista un ritorno, quello di Bill Gates, che con i suoi 40 miliardi di dollari supera il numero uno dello scorso anno, Warren Buffett, 37 miliardi. Al terzo posto il messicano nel business delle telecomunicazioni Carlos Slim, 35 miliardi. Subito dopo il numero uno della Oracle, Lawrence Ellison. Al decimo posto lo spagnolo Amancio Ortega della catena di negozi di abbigliamento low cost Zara. Il primo italiano a comparire nella classifica dei più ricchi è Michele Ferrero, al quarantesimo posto, il papà, onore al merito, di Nutella e Ferrero Rocher. Secondo degli italiani, 70° nella classifica mondiale, Silvio Berlusconi and Family. Subito dopo, 71°, Leonardo Del Vecchio di Luxottica. Torno un attimo a parlare di Obama, che è stato molto attivo in questi giorni anche sul fronte della politica estera. Prima di tutto non ha escluso la possibilità di trattare anche con i talebani moderati, insomma, comunque la si voglia vedere, è un cambio di passo notevole rispetto alle strategie di Bush. Poi Obama mostra l'intenzione di accelerare il ritiro dall'Iraq e poi c'è l'Iran, nei confronti del quale Obama ha prolungato di un anno le sanzioni. Il discorso naturalmente ruota sempre attorno al programma nucleare, vero o presunto, minaccioso o non minaccioso, di Teheran. L'ottavo giorno. Martedì. Stupro, scagionati i due romeni, ho preso a caso il titolo della prima pagina di Repubblica di mercoledì, che così sintetizza la svolta, impensabile forse qualche settimana fa, nelle indagini per lo stupro della Caffarella, lo stupro della notte di San Valentino. Tuffiamoci allora in questa storia molto dolorosa e molto strana, costellata peraltro di conti che non tornano e di pasticci investigativi. Lunedì era addirittura spuntato un super testimone, come racconta questo servizio di Valentina Furlanetto. È un medico che correva nel parco, il testimone che potrebbe incastrare Alexandru Stoicaloios e Carol Rax, i due romeni accusati dello stupro di una minorenne avvenuto il 14 di febbraio. Il testimone è stato citato oggi dalla Procura di Roma nell'udienza del Tribunale del Riesame. L'uomo, che è stato sentito inizialmente nel corso di un altro procedimento, ha detto di aver incontrato i due romeni nel parco quel pomeriggio intorno alle 17:30, mezz'ora prima dello stupro. Descrivendo uno dei due uomini, il medico ha segnalato l'assenza dei denti incisivi. Il particolare, riferito ai carabinieri prima dell'arresto di Loios e Rax, è importante non solo perché lo stesso Rax è privo degli incisivi, ma soprattutto perché la stessa descrizione era stata fatta anche dalla donna di 41 anni stuprata il 21 di gennaio, episodio per cui a Rax è stata notificata una seconda ordinanza di custodia cautelare. La testimonianza del medico è un altro dei motivi per cui il PM ha chiesto di trattenere in carcere i due indagati. La decisione del Tribunale del Riesame di Roma è attesa entro domani. Valentina Furlanetto nel suo servizio annunciava il parere imminente del Tribunale del Riesame, che puntuale giunge martedì. Ecco i dettagli con Massimo Di Scienza. Per il collegio giudicante non sono stati loro, Alexandru Istoiskaloios e Carlos Razza, a violentare la ragazza di 14 anni sotto gli occhi del suo giovane fidanzato tra i vialetti deserti del parco della Caffarella a Roma. La sentenza del riesame è arrivata dopo una lunga camera di consiglio e ha stabilito che per quello stupro non c'è ragione che i due rumeni restino in carcere. Ma le porte di Regina Coeli per ora per loro non si aprono. Razza resta in carcere per l'accusa di aver stuprato una donna in gennaio, sempre a Roma. Loios, che prima aveva confessato e poi ritrattato, è stato raggiunto da un'ordinanza cautelare per i reati di calunnia ed autocalunnia. Il castello dell'accusa, dopo il punto ottenuto dagli avvocati difensori, adesso vacilla. Neanche le dichiarazioni del cosiddetto supertestimone, un uomo che avrebbe notato la presenza dei due indagati allora e nel posto della violenza, hanno convinto i giudici. Le motivazioni della sentenza non sono state rese note, ma è assai probabile che abbia contato soprattutto l'assenza di riscontri dalla prova del DNA, che ha escluso la presenza del profilo genetico dei due indagati sulla vittima. Le indagini adesso ripartono da capo. Il destino delle indagini e anche degli accusati nello stupro della Caffarella si intreccia poi con quello di un altro stupro di Prima Valle avvenuto a gennaio, quindi poche settimane prima. Anche su questo versante, col passare dei giorni, aumentano i dubbi e diminuiscono drammaticamente le certezze. Paolo Piacenza. Ancora il DNA. Dopo essere stato scagionato dall'accusa di essere l'autore dello stupro della Caffarella insieme al biondino Loios, per Carlos Razza si indebolisce anche quella per lo stupro di Prima Valle. Sul corpo e sugli abiti della 41enne assalita in Viale Andersen a Roma lo scorso 21 gennaio, gli specialisti della polizia scientifica avrebbero infatti trovato tracce biologiche non riconducibili all'immigrato, ma solo a un altro uomo con cui la donna risulta aver avuto un rapporto consenziente. Ora si attendono conferme da ulteriori verifiche, ma se il collegamento tra Razza e la donna fosse escluso, l'insieme di accuse che ha permesso di inchiodare il rumeno e di tenerlo in carcere finora cadrebbe come un castello di carte. Resta, è vero, il riconoscimento formale di Razza da parte della vittima, ma la stessa donna ha detto di non essere sicura al 100%. Sia Razza che Loios sono attualmente a Regina Coeli. Ieri Razza ha ricevuto la visita del console rumeno e, come Loios, ha rinunciato all'ora d'aria. La libertà per lui potrebbe essere vicina. Ieri c'è stata l'ultima svolta, almeno per il momento, nelle indagini. Infatti, su decisione del GIP, rimane in carcere Alexandru Loios, il ventenne rumeno sospettato dello stupro della Caffarella. Per il GIP, per quanto sia illegittimo il fermo per calunnia e autocalunnia, il carcere è giustificato per un altro reato, cioè la calunnia nei confronti della polizia romena. La storia naturalmente non finisce qui, però bisogna ricordare che i romeni in Italia sono tanti, sono numerosissimi, e non soltanto quelli accusati di stupro. C'è anche tanta gente per bene che, per esempio, apre un'attività. E allora sentite cosa andate a vedere lunedì, Paola Nania. Curiosi di provare il goulash o di assaggiare formaggi e salumi rumeni? Il posto che fa al caso vostro è aperto a Roma, a due passi dalla stazione Tiburtina. Si chiama La Strada ed è uno dei primi supermercati rumeni della capitale. Ieri l'inaugurazione, come ci racconta Mirella, una delle dipendenti. Ah sì, c'era molta gente, rumena anche italiana. Poi sono venute due cantanti famosi da Romania. Abbiamo preparato i piatti tipici rumeni, che sono piaciute a tutti. Per esempio? Allora, tutti i tipi di salami, formaggi, abbiamo fatto i tramezzini, no? Con tutti i salami rumeni. Agli italiani gli sono piaciuti tanto. Nel bancone invitante dei salumi si trova il pecorino sardo accanto alla pastrama di impulpa de pui, vale a dire coscia di pollo affumicata, il prosciutto cotto e i carnazzi de casa, salsicce affumicate. I clienti sono rumeni ma anche italiani. Sono da qui innanzitutto perché volevo congratularmi con loro e sono riusciti ad aprire un'attività in così breve tempo, e poi anche la comodità del fatto che io abito vicino. Che cosa hai comprato qui? Prodotti rumeni. Tipo? Quello che mi mancavano. Il sugo, che è di mirtilli, che è diverso di questo. E poi il salame. Mi ha fatto piacere che pensavo è un po' meno caro. Ah, ecco, è meno caro. Meno caro, che sono prodotti del nostro paese, dell'origine, che diciamo ci abbiamo nostalgie. Bella notizia per noi, perché mangiamo qualcosa di nostro, preparati la Romania, e sono buoni. Mercoledì. E siamo arrivati, ne avevamo fatto a meno ma non potevamo ignorarle, alle dolenti amarissime note del calcio italiano. C'era in programma questa sfida stellare tra Italia e Inghilterra in Champions League, c'erano molte speranze alla vigilia, poi c'erano stati dei risultati direi piuttosto complicati all'andata, un po' di pretattica, qualche spacconeria di qualche mister, di qualche allenatore. Poi insomma tra martedì e mercoledì arriva il campo e quindi zitti tutti e pedalare attorno al pallone. Ad aprire le danze e le sconfitte purtroppo martedì è la Juventus. Sentiamo Dario Ricci. Il sogno europeo sfuma, restano gli applausi della curva, perché la Juventus lotta, soffre e ci crede, ma alla fine il 2-2 di Torino regala al Chelsea i quarti di Champions. I bianconeri pagano i troppi infortuni, ieri fuori anche Nedved dopo un quarto d'ora, e dire che al 20° Iaquinta batte Cech e pareggia l'1-0 per gli inglesi dell'andata. Ma i Blues fanno 1-1 allo scadere del primo tempo con Essien che insacca una cara sulla traversa juventina. E al 70° Juve in 10 per l'espulsione di Chiellini per un brutto fallo su Drogba. Passa un minuto il rigore di Del Piero per mani di Ballack, accende l'ultima speranza, spenta però dal 2-2 di Drogba a 8 minuti dalla fine. Mercoledì chiudono il cerchio Inter e Roma. Anche per loro finisce l'avventura europea, anche se bisogna ammetterlo, le premesse e poi le partite giocate sul campo sono molto diverse tra le due squadre. Ci racconta tutto Carlo Getta. È notte fonda quando l'Italia del calcio esce dalla Champions League. Vola via come il rigore sparato alle stelle da Tonetto, dopo che una Roma troppo piena di cerotti e punture antidolorifiche aveva trascinato l'Arsenal fino a quell'epilogo, con il gol iniziale dello zoppo Juan a pareggiare il conto dell'andata. Così la primavera di Coppa, per gli altri appena all'inizio, per noi è già finita. Il sogno dell'Inter muore invece in uno degli stadi più belli del mondo, con la squadra più forte del mondo. Detta così però non vale, perché lo United di ieri sera non sembrava esattamente un mostro a tre teste. Gol a freddo di Vidic in faccia a un Inter con troppa fifa addosso. Quando passa, la squadra si scioglie. Serviva una grande partita, non un miracolo. L'Inter è solo discreta e sfortunata. Quando Cristiano Ronaldo la buca ancora a inizio ripresa, si arrende, seguendo il suo capogiocatore Zlatan Ibrahimovic, che si dissolve, ancora una volta, nell'aria della partita senza appello. Moratti aveva preso Mourinho pagandolo a peso d'oro per vincere la Champions League. Invece lui cade dove era caduto Mancini e l'Inter rimane una corazzata alla fonda nello stagno di casa. Era dal 2002, pensate, che l'Italia non restava così amaramente fuori dai quarti di finale di Champions League e adesso ci affidiamo all'Udinese, che è l'ultima superstite ancora in corsa in Coppa UEFA. Però bisogna notare che persino il Wall Street Journal ha parlato della crisi economica, di programmazione prima ancora che di gioco del nostro calcio. Non c'è dubbio che la sconfitta più rumorosa è comunque quella dell'Inter, almeno perché era la squadra con più ambizioni in partenza. Il giorno successivo, tra l'altro, devo dire che più che la bocciatura negli atteggiamenti dei cronisti, dei commentatori sportivi, ho letto più un tono di assoluzione quasi nei confronti dell'Inter. Insomma, il tentativo era di dire che il Manchester è una squadra di marziani, per ora imprendibile e imbattibile. Però intanto c'è chi ride sotto i baffi, cioè Galliani, che ci ha tenuto a precisare che l'ultima squadra italiana a battere e ad eliminare il Manchester United è stato 2 anni fa il Milan. Adesso sono abbastanza sicuro di questo, comincerà il balletto sul discorso se Mourinho resterà o meno all'Inter a fine anno. Sono già partite le quote inglesi, che Mourinho vada via dall'Inter è quotato 1,80, che resti invece dopo il campionato è dato a 1,10, quindi è più probabile per ora la possibilità che Mourinho continui ad allenare l'Inter l'anno prossimo. Ma c'è un'altra brutta storia che riguarda Mourinho e che arriva dall'Inghilterra, come ci spiega Dario Ricci. Oltre alle sberle, le due rifilate dal Manchester United sul campo alla sua Inter, ci sarebbe stato anche un pugno nell'amara notte dell'Old Trafford di José Mourinho. A riportare la notizia ai media britannici, secondo i quali il tecnico portoghese avrebbe aggredito un tifoso dei Red Devils nei pressi del pullman dell'Inter, mentre stava lasciando lo stadio di Manchester dopo la sconfitta per 2-0 che è costata ai suoi l'eliminazione. Il fatto sarebbe accaduto intorno alla mezzanotte. Il tifoso avrebbe poi denunciato tutto alla polizia. Gli agenti di Manchester avrebbero già contattato lo United per richiedere i filmati delle telecamere a circuito chiuso dell'area. Ma dallo Special One, già da Piano Gentile per la ripresa della preparazione in vista della sfida di sabato di campionato con la Fiorentina, arriva solo una secca smentita. Sul presunto pugno rifilato da Mourinho gli inglesi non ci stanno andando per il sottile, addirittura sono spuntati due testimoni subito pizzicati dal Sun. Vabbè, insomma, cambiamo pagina e cerchiamo di consolarci con la Coppa del Mondo di sci. Giovedì infatti l'Italia può esultare a buon diritto. Dario Puppo. L'Italia si scopre super gigante alle finali di ore. Lo sci festeggia in Svezia una giornata memorabile nell'ultimo appuntamento della stagione, collezionando una vittoria e tre podi nella specialità storicamente per noi più avara di successi. La festa azzurra si apre con il terzo successo della carriera e il secondo stagionale in Super G di Werner Hell, che per soli 7 centesimi alla meglio sul norvegese Svindal. Il vichingo, nonostante la febbre, raccoglie punti importanti per vincere la coppetta proprio davanti a Hell e lanciare la fuga nella classifica generale sullo austriaco Raik, quarto al traguardo. Terzo è Christoph Ineroppe dal primo podio in Super G, con Peter Pearson addirittura tra gli altri nei top 5, impresa senza precedenti. In campo femminile sono 8 centesimi che bastano invece la Vona per calare il poker consecutivo in Super G, nonché il nono trionfo in Coppa. Nadia Panchini è seconda sia in gara che nel ranking di disciplina. L'ottavo giorno. Giovedì. Una cosa che non manca mai all'ottavo giorno è l'economia, che ci piace o no, dobbiamo per forza parlarne. Ma questa volta partiamo da quello che avviene giovedì a New York, perché c'è una truffa colossale, incredibile, la più straordinaria della storia, che però è stata da tempo scoperta, scoperchiata, e il colpevole, proprio dopo giovedì, si avvicina inesorabilmente, ma direi anche meritatamente, al carcere. Cristina Balotelli. Nella patria della SEC, la più grande autorità di controllo dei mercati finanziari, l'ex presidente del Nasdaq, Bernard Madoff, è riuscito a mettere a segno la più grande truffa di Wall Street. 50 miliardi di dollari andati in fumo. Ci è riuscito per un motivo molto semplice. Nessuno ha controllato. Ieri, davanti al giudice in un tribunale di Manhattan, ha ammesso la sua colpevolezza. Aveva messo in piedi una sorta di catena di Sant'Antonio, un sistema di vendita noto come schema Ponzi, dal nome di un truffatore italiano, che promette forti guadagni ai sottoscrittori a patto che reclutino nuovi investitori che saranno a loro volta truffati. Madoff poteva così permettersi una vita da nababbo. Ora però, su ordine del giudice, ha dovuto lasciare il suo lussuoso attico a Park Avenue per una cella di un penitenziario affollato, dove dovrà attendere la sentenza prevista per giugno. Ho perso tutto e quando perdi tutto non ti importa più di niente. Ero andato in pensione, ora devo ricominciare a lavorare, dice quest'uomo che ha assistito all'udienza. Il finanziere rischia di finire la sua vita in carcere, ma chi ha perso non sarà risarcito. Le cronache di questo giovedì, che probabilmente passerà alla storia, ci descrivono un'aula del Tribunale di New York piena di risparmiatori truffati che al momento della decisione del giudice hanno esultato senza contegno. Madoff, tra l'altro, in aula era con il giubbotto antiproiettile, particolare sicuramente inquietante. E veniamo all'Europa, perché succedono molte cose anche da queste parti. In settimana, esattamente mercoledì, Berlusconi per esempio va a cena con i banchieri, poi durante la settimana ha continuato ad invocare ottimismo per, diciamo così, far passare la nottata, per far passare la crisi. Crisi che però sarà lunga e dolorosa. Arrivano ulteriori segnali in settimana, c'è per esempio il centro studi di Confindustria che ha detto che il ricorso alla cassa integrazione ormai è tornato ai livelli del 1993, e addirittura c'è il Comitato Europeo per l'Occupazione che ha pronosticato per la fine del 2010 addirittura 6 milioni di disoccupati nel vecchio continente. Sentiamo invece adesso giovedì la posizione della Banca Centrale Europea con Beda Romano da Francoforte. La Banca Centrale Europea tiene la porta aperta a nuovi tagli del costo del denaro nella zona euro, ma per ora non prende impegni. Nel suo bollettino mensile di marzo, l'Istituto Monetario afferma che non vi sono rischi deflazionistici nell'Unione, ma ammette che l'inflazione potrebbe essere temporaneamente negativa a metà anno per un effetto confronto con il 2008. Sui rischi di deflazione non tutti gli economisti di mercato sono così ottimisti, tanto che molti si aspettano ulteriori allentamenti monetari da parte della BCE nei prossimi mesi. Per ora il presidente Jean-Claude Trichet è rimasto cauto. Si è limitato a dire che il livello di 1,5%, raggiunto con la riduzione del costo del denaro la settimana scorsa, potrebbe non essere il livello più basso dei tassi di interesse nella zona euro. Venerdì. Chiudiamo con una ricca pagina di esteri, perché ci sono purtroppo tanti fronti di tensione e di preoccupazione sparsi un po' in ogni angolo del mondo. Partiamo dal Sudan, dove anche ieri si vive una giornata tesissima per i 3 operatori di Medici Senza Frontiere che vengono rapiti. Nella giornata di giovedì, tra l'altro, c'è anche un italiano. Sentiamo proprio la ricostruzione della vicenda con Raffaella Calandra. Ora anche un rapimento. Pochi giorni dopo il provvedimento di espulsione per 13 ONG. Nel Darfur è allarme rosso per le organizzazioni umanitarie e Medici Senza Frontiere si prepara a richiamare tutto il personale. 5 operatori in camice bianco sono stati sequestrati ieri nell'ospedale di Serif Umra. Poco dopo, 2 sudanesi sono stati liberati, mentre restano ostaggio un medico francese, un'infermiera canadese e un dottore italiano, Mauro D'Ascanio, 30enne vicentino alla sua prima missione. Erano armati ma non hanno usato violenza, hanno raccontato gli operatori già liberi, a cui sarebbe stata consegnata una lettera col riscatto. Si ipotizza un'azione di banditismo in quest'area, che è tra le più pericolose del paese per la presenza di quasi tutti i gruppi coinvolti nella guerra civile in corso dal 2003. Abbiamo contattato gli ostaggi e presto saranno liberati, rassicura il Ministero degli Esteri sudanese. Secondo il principale gruppo ribelle, il Movimento per la Giustizia e l'Uguaglianza, si troverebbero nella zona di Keb Kabia, nelle mani di miliziani arabi Janjaweed, alleati di Khartoum. Nel Darfur, dilaniato dal conflitto, la situazione è precipitata ulteriormente dopo che la Corte Penale Internazionale ha chiesto la cattura di Omar al-Bashir, il capo di Stato in carica. Adesso è una terra di nessuno, dove la popolazione civile paga le conseguenze, racconta chi ci lavora. In settimana si registrano tensioni anche in Tibet. Il 10 marzo erano 50 anni dalla fuga del Dalai Lama in India, quindi c'era questa ricorrenza piuttosto delicata, e ci sono state tensioni tra Lhasa e Pechino. Poi ci sono state purtroppo 2 violente, terribili sparatorie, una in Alabama, di cui abbiamo già parlato in precedenza, un'altra molto più vicina a noi. Mercoledì infatti una strage avviene in Germania. Sentiamo Paolo Piacenza. 15 vittime, una in meno della strage di Herford di 7 anni fa, ma la stessa inspiegabile violenza improvvisa, colpevole e vittima allo stesso tempo è Tim Kretschmer, 17 anni. Ieri mattina è uscito di casa, una tranquilla villetta di Leutenbach nella regione di Stoccarda, ed è andato nella Albertville Realschule di Winnenden, dove si era diplomato l'anno prima. Ha cominciato a sparare con una delle 16 armi che i genitori tenevano in casa, regolarmente registrate. 8 ragazze, un ragazzo tra i 14 e i 15 anni, 3 professoresse, l'impiegato in una clinica psichiatrica sono rimasti a terra, morti. In tutto 13 persone. Poco lontano, a Wendlingen, dove il giovane assassino è giunto dopo la strage alla scuola, le vittime sono state il proprietario di una concessionaria e un cliente. Infine, Tim Kretschmer, dopo uno scontro a fuoco con la polizia, dopo aver ferito ancora 2 agenti, decide di farla finita e si spara. Per la Germania lo shock è stato violentissimo. Una commossa Angela Merkel è apparsa in TV. Un crimine orribile, inimmaginabile, ha detto. Nato nei meandri della mente di un giovane che tutti, anche dopo, ricordano tranquillo, normale, come tanti. E poi c'è l'Irlanda, che all'improvviso sembra precipitare al passato di guerra e terrorismo. Sentite Cristina Carpinelli nel GR delle 13 di martedì. 2 attentati in 48 ore e sull'Irlanda del Nord piomba nuovamente lo spettro del terrorismo. Questa notte un agente di polizia inglese è stato ucciso con colpi d'arma da fuoco a sud-ovest di Belfast. L'omicidio è stato rivendicato poco fa dall'ala dissidente dell'IRA, che in un comunicato dice: fino a quando i britannici saranno implicati in Irlanda continueranno gli attacchi. Attacchi che sabato notte sono costati la vita a 2 militari inglesi, ragazzi di 21 e 23 anni, uccisi all'ingresso principale di una caserma a nord-ovest di Belfast. Anche in questo caso l'attentato è stato rivendicato dai dissidenti dell'IRA, oggi entrati a far parte della Real IRA, cioè l'esercito repubblicano irlandese che si oppone al processo di pace che negli ultimi anni ha firmato numerosi attentati contro civili e soldati. Gli omicidi di queste ultime ore sono i primi dal 1998, fatti gravi che hanno spinto il primo ministro nordirlandese Peter Robinson e il vice premier Martin McGuinness ad annullare il viaggio previsto negli Stati Uniti. Sono disgustato da questi attentati, ha detto Robinson. Non ci sarà un ritorno al passato, ha dichiarato invece il capo del governo inglese Gordon Brown, che sentite da Londra. Si tratta, ha continuato Brown, di assassini che tentano di far deragliare e distruggere il processo politico che funziona per la popolazione dell'Irlanda del Nord. Ci manca l'ottava notizia della settimana. Qualcuno si ricorda Muntazer al-Zaidi? Beh, se qualcuno non si ricorda questo nome, può semplicemente ascoltare e capire questo servizio di giovedì di Adib Fateh Ali. stato condannato a passare 3 anni in carcere il giovane giornalista iracheno che lo scorso dicembre lanciò le sue scarpe contro l'ex presidente statunitense George Bush. Nel tentativo di invalidare l'accusa di aggressione ad un capo di Stato straniero, il suo difensore aveva sostenuto che la visita di Bush era stata a sorpresa e non ufficiale, riuscendo però solo a rinviare la scontata sentenza. Tenendosi ben stretto il ruolo di eroe attribuitogli da molti suoi connazionali, alla corte che lo giudicava, Montazer al-Zeidi ha detto di non sentirsi colpevole e che il gesto che gli era venuto spontaneo lo avrebbe fatto qualsiasi altro iracheno al suo posto. Abbiamo finito con l'ottavo giorno di oggi, ricordo la mail ottavogiorno@radio24.it. Ringrazio Valerio Rocchetti in regia e vi do appuntamento alla settimana prossima alle 10 oppure alle 23 in replica.